so old and love so real. Love is pure gold and time's a fool. C'è un caldo che devasta, la penna scivola sul foglio, anche la testa scivola sulla rima più frivola. Ma l'amaro che sento mi frena, ma la mano mica la mantengo. Mi va da sola e quindi giù un'altra rima, giù ancora un'altra rima, e giù di lì che si continua a scrivere e descriversi. E non dimentico ciò che la musica mi dà, per sempre sarò in debito. In un istante mi collego col pensiero a stupidi episodi e l'umore diventa nero. Sono calmo, ci provo almeno per poche ore, ma quante puttane gli ho regalato il mio cuore. Ma adesso basta con l'angoscia e la paura degli amici che ti scrutano dietro la serratura, che ti guardano e ti fissano. Ma dopo il panico tu li vedi entrare con coltello e serramanico. Mi affido all'estro di una penna, lascio che si accenda dopo che l'ultima luce si è già spenta. È nel silenzio che cerco l'eco più sottile, la voce di chi parla senza farsi sentire. Tutto gira in fretta, tutto gira in testa, come vortici di aria più fresca. Parole in fila squarciano mille pensieri, raccogliendo qualcosa di oggi e qualcosa di ieri. Tutta sostanza che plasmo come materia nel cosmo. Inchiostro nero che scende, porta alla mano uno spasmo. È quello che il foglio mi chiede, li lascio segni tangibili della mia fede. Ogni frase erede del mio tempo, come una donna incinta la porto nel grembo, finché il fiato le darà nuova vita, mi vida. Un'altra voce che grida. Sta bene, vola notte a me, me consigliera. Non l'umo che fa luce, illumina. Ia mana mica scrivo sempre sola. Non passa né parole, poi te scrivo sti pensiera. Inghiostro maggi tutte cose come a scuola. Mi applica, poppa si parra, comanda vita e mastica. Lirica e stile, come una vera fatica. So creazione stile, cappa l'inglina, lezione vita. I canto può piacere, fino a che carin rovina. Amenda mia, non piace, cadurina eterna. Arrosta musica, non si ferma. Mi batto forte a rinda, fino a farmi spodo esterna. Che m'accompagna, vinto sonno e rinde sogna. Una pace pugna, a me una fantasia, ma te la camana. Stata, esploro luoghi innati, mi porto lontana, sti posto mondana. Parla per luce, mi ritrovo stesso luogo. Mi rendo conto e poi suppongo che c'ha su naso. È sempre la solita forza naturale, il mezzo è una penna al fine di urlare. Passando poi in studio per registrare, sentirla con gli amici per farti pompare. È il mezzo migliore che ho per comunicare, suonare dal vivo, veder suonare. Sfogare 2,5 kg di pare, da fare quando sto male per potermi salvare. Tant'è che comincio a pensare che il malessere è oro colato che non puoi sprecare. È il tempo che smuove carta e matita, che considero come il supremo che ci dà la vita. Infatti c'è un tempo in cui sei nato e cresciuto, e quanto ne sprechi dietro allo sconosciuto. Il tempo che perdo per scrivere sul tempo, di certo non è mai del tutto perduto. Sì, dual shock. Faraone, one. Yeah. Palermo City, sa, sa. Ok, scrivo il rap, ho scrisi nero su bianco su questo banco, too easy. In easy la mia anima è pacata, il caffè fumante carica questa giornata. La managgiata con la biro tra le dita, le parole scritte sono in prossima uscita. Non c'è più tempo per descrivere il mio tempo, ad ogni volta che lo faccio quest'ultimo va più lento. Riprendo fiato, collasso, poi rileggo questa riga e procedo con il ripasso. Piccio sul tasto del rap che controllo le corde vocali con un mic check. Checkami, checkame, checka dingo. Checka sound di fara con le ritmiche che spingo. Cerca e porto d'armi per le nostre penne, perché il messaggio è l'arma più potente.